as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui ad Il Pane e le Rose. Siamo sempre su Radio Città Fucico, ricordo a tutti 103.1. Se non potete ascoltarci, andate sulla pagina podcast del Pane e le Rose su Facebook. Troverete tutti i podcast delle ultime 30 puntate almeno, se volete riascoltare qualche puntata. Oggi puntata dedicata sulle donne. Siamo nel mese di novembre. Ci saranno diverse manifestazioni come ogni anno. La questione femminile purtroppo in Italia se ne discute l'8 marzo e se ne discute anche nel mese di novembre con le varie manifestazioni organizzate da vari gruppi femministe. Ci dovrebbe essere anche quest'anno, credo, lo sciopero organizzato dai gruppi femminili in Italia e in tutto il mondo. Noi però siamo metalmeccanici e all'interno del nostro mondo vediamo quello che riusciamo a fare, quello che stiamo facendo per la questione delle donne. È un mondo fatto di uomini, il nostro mondo dei metalmeccanici, tutti quanti lo sanno, rispetto ad altre categorie come il pubblico impiego, scuola, commercio. Il nostro è un mondo in prevalenza maschile, ma ci sono anche le donne, sono anche una parte importante in alcuni casi della nostra organizzazione sindacale e anche lavorativa. E oggi l'intervista parlerà proprio di questo, di quello che il coordinamento donne di varie zone, in questo caso abbiamo intervistato la responsabile del coordinamento donne di Bologna, Barbara Graziano, che ci spiegherà quello che è stato deciso a livello nazionale di fare e poi quello che verrà fatto a Bologna e in altri territori. Ecco, adesso io vi lascio una bellissima canzone, un classico, ma ci sta. Dopo la canzone ascolteremo l'intervista a Barbara Graziano e poi ci sentiamo per le conclusioni. A dopo. Lasciano una scia, le frasi da bambino. tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo così dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate, ma potrai trovarci anche. Allora, siamo qui con Barbara Graziano, la responsabile per quanto riguarda la FIOM della questione femminile all'interno di Noi Metalmeccanici di Bologna. E con te oggi siamo qui al presidio della Magneti Marelli, bellissima giornata, un sole che spacca, abbiamo sudato, sì. Abbiamo sudato di brutto. Iniziativa molto bella sul cambiamento climatico e il futuro della fabbrica, ma non siamo qui per parlare con te di questo, ma in realtà sappiamo che c'è stato un accordo importante tra FIM, FIOM, WILM e Federmeccanica, dunque è all'interno del nostro mondo metalmeccanico, si chiama Generiamo Cultura, se non mi sbaglio, in cui si affrontano tutte le tematiche delle molestie verso le donne nei luoghi di lavoro di noi metalmeccanici. Allora, ci puoi spiegare un attimo questo accordo? Allora, innanzitutto è in continuità con quello che è stato il nostro contratto nazionale, dove ha visto un allargamento dei permessi per poter restare a casa per le donne, vittime di violenza di genere che rientrano nel percorso stabilito dalla legge. E continuando questa idea che comunque non ci devono essere delle violenze, delle molestie dentro i luoghi di lavoro, il mese di novembre, che come sappiamo durante il mese di novembre c'è la giornata internazionale contro le violenze di genere, è stato deciso di fare un'ora e mezza / due di formazione o informazione su quelle che sono le molestie dentro ai luoghi di lavoro, molestie che non sono solo sessuali ma possono essere anche verbali ma anche economiche. Quindi in questo mese, ma anche oltre, se non si riesce in questo mese, ma prevalentemente nel mese di novembre dovrebbero essere fatte queste formazioni. Allora, il mese di novembre è il mese che ormai sono anni dedicato alle donne. Abbiamo visto in questi anni ci sono state delle manifestazioni, varie organizzazioni femministe hanno organizzato manifestazioni, scioperi, la FIOM si è sempre mobilitata, ha fatto tante altre cose come assemblee in fabbrica, diciamo questo mese verrà dedicato per questo, no? Alla fine si è scelto il mese di novembre perché è il mese che ormai è dedicato alle donne. Che poi oltretutto va anche in continuità su quello che noi del coordinamento donne della FIOM di Bologna avevamo deciso, che dall'8 marzo in avanti ci sarebbe stata una formazione fatta di assemblee sempre sul mondo femminile, cioè dire non solo è l'8 marzo quel giorno lì, ma è 8 marzo tutto l'anno. Quindi questo è venuto proprio in continuità, senza volerlo, con quello che avevamo già deciso l'8 marzo. E quindi quindi si continueranno non solo nelle aziende dove si applica il contratto di, nazionale di Federmeccanica, ma anche nelle altre aziende dove c'è, come il contratto nazionale di Union Meccanica, delle assemblee anche con l'aiuto magari di persone che sono dentro ai centri di antiviolenza, per poter spiegare ai lavoratori e alle lavoratrici quello che sono le molestie e le violenze di genere, e come si possono verificare, tenendo presente che noi veniamo da una cultura che è patriarcale, quindi molte volte noi facciamo o diciamo delle cose senza accorgersi che sono delle molestie, proprio perché è nella nostra abitudine e non ci pensiamo, lo facciamo automaticamente. Quindi questo deve essere un momento per rivedere anche i nostri comportamenti da parte di tutti, donne e uomini, senza distinzione. Dunque ci sarà, cioè questa generiamo cultura, è rivolto a tutti, ma soprattutto si chiede la collaborazione degli uomini, cioè che non saranno assemblee di sole donne, come spesso vediamo in alcuni movimenti purtroppo, che sono talmente femministi che poi rimangono tra di loro, ma si manifesta tra di loro, ma in realtà non si coinvolge la parte maschile. I metalmeccanici in realtà vogliono parlare proprio agli uomini, innanzitutto. Allora, noi non possiamo pensare di cambiare la cultura del nostro paese senza includere in questo cambiamento gli uomini. Principalmente perché sono gli uomini che generano della violenza. Se noi guardiamo i femminicidi, cioè è l'uomo che è il soggetto che crea della violenza sulla donna, anche senza guardare i femminicidi. Quindi noi dobbiamo installare questa cultura soprattutto sugli uomini, ma anche sulle donne, su tutti quanti. Non possiamo pensare di poter cambiare senza l'apporto maschile. La domanda che invece ti volevo fare era, visto che c'è questo accordo, visto che ci sono anche proprio nel territorio di Bologna una contrattazione che spesso è rivolta verso questi problematiche, mi viene in mente la Lamborghini, se non mi sbaglio, o anche altre contrattazioni, si pensa anche all'interno della FIOM di procedere, visto questa esperienza, a fare degli accordi in cui questo tema venga sollevato? Noi stiamo pensando di istituire delle linee di guida sulla contrattazione di genere. Questo serve principalmente di aiuto, perché noi stiamo cambiando tutto l'apparato, quindi ci sono molti funzionari giovani che non conoscono la storia di quello che è stata la contrattazione all'interno di Bologna. E anche perché è un modo da quale poter accingere, però non devono essere tutti uguali, perché dopo vanno riportati su quella che è la realtà dell'azienda, quindi accinci sull'idea per poi metterlo dentro a quello che è la realtà di quell'azienda dove stai facendo la contrattazione di secondo livello. Quindi noi procederemo anche a far questo. E per quanto invece riguarda la contrattazione nazionale, io penso che l'ultimo contratto sia stato un esempio di qualcosa. Nell'ultimo contratto c'è una parte legata a questa problematica? Sì, infatti è stato ampliato quello che era già previsto per legge, i mesi che le donne possono stare a casa. Stiamo parlando di donne che sono dentro al percorso, che sono vittime di violenza, ma possono anche, dove è possibile, perché non tutte le aziende è possibile, possono chiedere anche il trasferimento, gli deve essere dato in un qualsiasi altro stabilimento all'interno di quell'azienda lì. Inoltre possono anche richiedere part time, quindi si è andato ad ampliare quello che già prevedeva la legge. Quindi proprio per quello che io all'inizio ho detto, questa idea di questo accordo che c'è stato con Federmeccanica di generiamo cultura va in continuità con quello che era già stato fatto all'interno del contratto nazionale che è stato firmato nell'ultimo contratto nazionale nel 2021. Allora, io che lavoro in Bonfiglioli, tu lo sai, a noi già in Confindustria ci hanno detto che la Bonfiglioli farà questa iniziativa. Dunque, io cosa dovrò fare? Questo vale per tutti. Esatto, come RSU dovrete andare a bussare all'azienda, so che voi l'avete già fatto, e dire quando è che facciamo questa formazione. Cioè non deve essere una contrattazione, deve essere soltanto una coordinazione insieme all'azienda su quando fare la formazione. Insieme all'accordo sono stati anche dati del materiale che volendo uno può utilizzare, sono del materiale di slide, di video, dove viene spiegato appunto tutte le varie molestie che ci possono essere all'interno dei luoghi di lavoro. Quindi volendo si può anche utilizzare quel materiale che già viene messo a disposizione di tutti. Se no si possono anche chiamare altre persone che ve lo spiegano in maniera diretta. Se le slide io trovo che siano un po' fredde, magari l'intervento di una persona può essere anche più coinvolgente rispetto delle slide. Però si può fare in tutte e due le maniere. Però non deve essere una contrattazione, sì. Deve essere una coordinazione assieme alla direzione aziendale. Tenendo presente anche che ad oggi c'è la certificazione di genere, che è come tutte le altre certificazioni, si creano dei percorsi di varie aree e proprio nella certificazione di genere c'è l'area relativa alle risorse umane dove c'è la formazione di tutti i lavoratori su quello che sono le molestie verbali, non verbali, fisiche, non fisiche, quindi se un'azienda sta già facendo quel percorso lo deve fare per forza perché è all'interno di quella certificazione di genere. Visto che anche c'è un accordo con Federmeccanica, tutti quelli che sono in Federmeccanica devono fare questa roba. È l'appello che noi facciamo, perché spesso si fanno le cose ma poi non vengono realizzate, molti padroni fanno orecchi da mercanti anche per non perdere un'ora di lavoro, invece in questo caso bisogna farlo. È proprio lì che i delegati, quindi le RSU delle aziende, devono venirci a dare una mano, perché sennò, come tutti gli accordi, se non ci si dà gambe finiscono nel dimenticatoio. Possono essere bellissimi ma bisogna farli vivere all'interno delle aziende. Ok, ti ringrazio Barbara, ci vediamo presto in fabbrica allora. Ok, ciao. El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor. Señor presidente, por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las compas, marchando en reforma por todas las morras, peleando en Sonora por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Abbiamo ascoltato un bellissimo pezzo credo messicano che ricorda le stragi che sono state compiute in Messico. In Messico è uno dei paesi in cui la questione femminile è veramente un problema enorme, visto gli omicidi che avvengono di donne e i soprusi. Questa qua è una bellissima canzone che grida vendetta per tutti i morti, ci sono stati tre donne uccise dagli uomini in Messico. Abbiamo ascoltato Barbara Graziano, prima vi ha spiegato, ci ha spiegato quello che noi dovremmo fare come metalmeccanici, dove lavoro io in Buon Filo di Tuttori. Ci incontreremo per organizzare questo corso di formazione indirizzato agli uomini e donne, ma io dico in prevalenza agli uomini, per spiegare che cosa significa violenza di genere, cosa significa molestie sessuali, molestie verso le donne, poi la questione dei diritti, che le donne purtroppo vengono penalizzate su tanti aspetti. E insomma, aspettiamo queste assemblee. La cosa più importante, noi abbiamo fatto questa trasmissione perché speriamo che questo arrivi in tutti i luoghi di lavoro, arrivi nei nostri luoghi di lavoro, perché spesso accade che vengono organizzate delle belle iniziative, vengono fatti dei belli accordi per fare delle bellissime cose. In questo caso è una cosa molto importante, no? Cercare di creare una coscienza all'interno dei luoghi di lavoro, soprattutto metalmeccanici, come bisogna comportarsi e quello è perché è sbagliato fare certe cose. Ora, sulla questione delle assemblee che verranno fatte è importantissimo, sulla contrattazione abbiamo sentito Barbara che nel territorio di Bologna sicuramente ci saranno delle linee contrattuali che poi speriamo che vengano estese anche a livello regionale, e poi ci sarà il contratto nazionale. Il primo passo è stato fatto, io ho criticato il contratto nazionale l'ultimo per alcuni punti, però sulla questione di genere, sulla questione femminile ci sono delle cose molto molto importanti, speriamo che verranno ampliate nel prossimo contratto e si andrà avanti verso questo passo. È emblematico che avvenga nei metalmeccanici, è una cosa per me, insomma, io sono fiero che noi metalmeccanici, che siamo sempre stati una categoria prettamente maschile, in questo momento siamo quelli che stiamo facendo più cose per la questione delle donne, per le questioni delle disuguaglianze e per le molestie. Basta, io penso che sarebbe un cambiamento radicale della società. Io da marxista non posso negare che tutto nasce dal problema di una società malata in cui purtroppo il profitto, il capitalismo porta alla barbarie, e la barbarie così come porta alla barbarie a livello più grande l'imperialismo, no? Porta alle guerre, le vediamo. Purtroppo la barbarie è anche nelle nostre città. E poi si trasmette nelle nostre famiglie, nei nostri luoghi, e poi accadono le disgrazie. Non è una giustificazione questo chiaramente, ma è per spiegare che se vogliamo veramente liberare l'uomo e la donna da questa situazione di oppressione, di barbarie che poi sfocia in questi gesti da condannare a sempre e comunque senza se e senza ma, bisogna cambiare la società. Avere una società socialista, una società più libera, più giusta, diritti per tutti, maggiore libertà per le donne, per gli uomini, e questo renderà la società più serena e molto probabilmente più ugualitaria. Ecco, io vi saluto con questa speranza e ci sentiamo alla prossima puntata. Thank you. forgive. It's not what I thought, and it's not what I pictured when I was imagining my man. Lucky to be given the chance.